Yo. Yo, yo. If I had magic wit, I'd pick a few bad habits quick and make them vanish like demons in a satanic skit. I wouldn't be mad at shit, cause I wouldn't stand this shit. When rappers touch more ice than a Titanic ship, I'd be a magician and still be rapping sick, pulling out classic hits like that rabbit trick. Man, a whole bag of tricks in secret languages, creating illusions like common acid trips. I'd master the art, yo, unthinkable things, like keeping your head high with invisible strings. And if time's darkened, don't mind the hardships. Come with me and reach for the stars on flying carpets. Divine card tricks that can open your mind. Free thoughts, look at them flow in the sky. But more seriously, I'd be enjoying the life. Winter style with Gandalf smoking a pipe. Apri gli occhi, sta a guardare questo senso che scompare. Occhi cadono nel vuoto, stelle cadono nel mare. Ame gli occhi, sì, senza volerteli strappare. Ma stravolgo la realtà, ho solo un modo per scappare. Ame gli occhi, sta a guardare le parole nel cilindro. Cos'è la falsità se il trucco è veramente finto? Ame gli occhi, a guardare con il mio punto di vista. Sono gli altri a non vedere o sono io l'illusionista? Bastasse un abracadabra per regalare alle labbra un sorriso autentico che celebra una vita libera. Scombrata, complessi riflessi, poi desideri inespressi, oppressi, illudendosi di averli soppressi. Bastasse una pozione che non dia soltanto l'illusione della levitazione, ma una concreta soluzione. Come? Un gioco di prestigio pronto nella tasca per rischiare sto cielo grigio nei tuoi giorni di tempesta. Puoi fermare l'orologio su un momento magico che possa fare da rifugio quando un altro si fa critico. Scomparire dal pubblico per riapparire in seguito di fronte ad uno scettico al centro del palcoscenico, sapendo di essere l'unico a conoscerne il succo. Resterebbero di stucco nel saper che non c'è trucco. Dicono sciocco il pazzo a credere nella magia. Se bastasse uno schiocco di dita, un poco di follia. Ame gli occhi, sta a guardare questo senso che scompare. Occhi cadono nel vuoto, stelle cadono nel mare. Ame gli occhi, sì, senza volerteli strappare. Ma stravolgo la realtà, ho solo un modo per scappare. Ame gli occhi, sta a guardare le parole nel cilindro. Cos'è la falsità se il trucco è veramente finto? Ame gli occhi, a guardare con il mio punto di vista. Sono gli altri a non vedere o sono io l'illusionista? La magie procure l'écriture, assure l'illusion sur la mesure. Nature qui se déforme vers d'autres figures. Un micro dans les mains pour que l'effet perdure. On chante tes oreilles dans ce monde trop dur. Mur est la main qui agite le stylo comme une baguette. Les mots ne suffisent pas à changer le sort de la planète, mais peuvent redonner un sourire à ceux qui ont que des miettes. Alors écoute, pas de prophète ou de triste recette. Spectateur ou vedette, tour de passe-passe à te faire perdre la tête. Phénomène de baraco, basse le prix pour une bête. Sortilège lyrical aux mille facettes. Consomme l'or épée sur la scène ou le set. Mais tout n'est qu'illusion et beaucoup d'entraînement. Tour de magie répétée jusqu'à l'épuisement pour que les sons se s'émerveillent. Dans l'instant présent, ici compte tes souvenirs et le compte pour longtemps. Ame gli occhi, sta a guardare questo senso che scompare. Occhi cadono nel vuoto, stelle cadono nel mare. Ame gli occhi, sì, senza volerteli strappare. Ma stravolgo la realtà, ho solo un modo per scappare. Ame gli occhi, sta a guardare le parole nel cilindro. Cos'è la falsità se il trucco è veramente finto? Ame gli occhi, a guardare con il mio punto di vista. Sono gli altri a non vedere o sono io l'illusionista?